ricevuto qualche ora fa una chiamata da Franco Coppoli, il compagno di Terni che tutti conosciamo, che anche voi conoscete bene, e appunto mi ha messo al corrente di questa forma di attività che si sta mettendo in piedi, di fare in fondo una sorta di momento di riflessione comune, collettiva e singolare, su un oggetto ben preciso che è la città di Terni e la memoriale che si può avere su questa città. Terni è stata caratterizzata da una pur controversa centralità, però di una pletora di lotte operaie e quindi della relativa memorizzazione di tutto ciò. È per questo che è suonato ancor più tollerabile, direi, l'irruzione a gamba tesa di questa specie di mostriciattolo di sindaco che è entrato con delle espressioni volgari, scorreggione, perché in fondo aveva da sempre fatto capire che pensava si potesse liquidare facilmente questa identità di storia e di memorie operaie soppiantandola con un cattivo senso comune. L'operazione, questa specie di balderia truculenta, non gli ha funzionato e quindi ci sono state le dimissioni e quindi ora si è un po' in una fase interlocutoria, non so, gli ultimi sviluppi, diciamo, delle cronache. Quello che vorrei dire però intanto è che, avendo anche come riscontro il lavoro, il work in progress che in questi anni ha realizzato Sandro Portelli su Terni, si può ricostruire la base preziosa di un'identificazione, certo agli antipodi di quella volgare che il sindaco aveva tentato offrire, sindaco leghista, sindaco, ma non è tanto la questione delle liste di partiti, è proprio una questione antropologica profonda che è in gioco. Ecco, allora quello che posso dire a questo stadio è un augurio che questo lavorio, mi permetto di dire nostro perché mi tengo stretto questo invito a parteciparvi, possa esprimere proprio una resistenza fattiva efficace a quello che era stato un tentativo truculento di liquidazione. Queste sono le prime parole che volevo dire, restando poi assolutamente a disposizione di un prosieguo del lavoro.